Nehasini si era allontanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchini, si facevano cazzare. Quando si fressero gli si fa gommia davvero a questi. C'è una novità, lenta da sud arriva la libertà, si torna a sperare, e pare che allora sia tornata in vita la terza brigata. E adesso che indietro non si ritornerà, una guerra è finita ma una guerra comincerà questa notte. Perché come si uccide chi ancora non c'è? Navi da guerra schierate giù al porto, perché non resti più neanche un ricordo. Ma ogni giorno è un giorno qualunque, ogni settembre è un settembre qualunque, finché qualcosa di un uomo qualunque dice questo non lo sarà. So che è già stanco quel poco coraggio che resta, ma questa mano alle dita serrate è per stringerlo forte e non farlo fuggire. E oggi non fuggirà, perché comunque sarà. Non è per l'onore, l'orgoglio o la gloria. Domani cosa accadrà? Se è nero l'inchiostro che scrive la storia, di quando mi ricorderò, di un giorno qualunque col cielo già scuro. So già che sorriderò, perché perché per essere fascisti bisogna essere imbecilli, se non c'è verso che tu lo sia.